facessi un punto della morte e trovi cuoio di labbra gonfie da cui sfamarsi, come quando per una cicala si sono baciate e mi viene da ridere, come quando le veniva in stanza insanguinata. Presente.